ricordo, che è un ricordo, mi allontani mentre il tempo sembra accelerare, la pioggia che batte sui miei occhi induce ed io rimango lì a sognare. Poi tornare.